Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Lunedì 4 novembre, giorno per alcuni della vittoria, per noi di un massacro, un genocidio internazionale, un crimine orrendo che viene anche sapere che è ancora festeggiato. La cosa forse più significativa sono le tantissime lapidi di intere generazioni strappate ai vari paesi d'Italia che compaiono ancora nelle piazze della provincia italiana. Comunque, alla faccia della vittoria, noi ascoltiamo la pagina di Radio Bullet. Buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nell'appuntamento del notiziario in genere di Radio Bullets a cura di Lena Maggiaro. Al microfono ci sono io, Barbara Schiavulli. Questi i titoli di oggi. Niger, le madri come migliore risorsa contro la malnutrizione infantile e l'aborto uccide ancora donne. A Panama non si placano le proteste per la legge di riforma costituzionale che impedirebbe di fatto qualsiasi tentativo di legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Infine, ecco il videogioco che parla a ragazzi e ragazze di discriminazione, odio e bullismo online. Oggi parliamo di questo nel web notiziario in genere del lunedì. Le madri come migliore risorsa contro la malnutrizione infantile. Quasi 1.200.000 persone soffrono di insicurezza alimentare in Niger. Sono più di 380.000, scriva Monica Pinna su Euronews, i bambini in stato di malnutrizione severa acuta e 38.000 sotto i 5 anni muoiono ancora ogni anno nel paese per motivi legati proprio alla malnutrizione. Chiyabu è un villaggio nella regione di Zinder, la zona al più alto tasso di malnutrizione globale nel paese. Qui oltre il 19% dei bambini tra i 6 mesi e 5 anni soffre di malnutrizione severa acuta o di malnutrizione severa moderata, la soglia di crisi fissata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è del 15%. A Chiyabu, si legge ancora su Euronews, le mamme vengono formate su come misurare la circonferenza del braccio superiore, in inglese MUAC, per diagnosticare la malnutrizione prima che superi un livello di non ritorno. L'ONG Alima ha iniziato questo progetto 6 anni fa nel distretto di Miria. Ora questo metodo non è più sperimentale, applicato nel resto del Niger e persino oltre confine. In Niger abbiamo formato circa 1.650.000 madri, 540.000 sono qui nel distretto di Miria. Il principale vantaggio è la diagnosi precoce per evitare l'ospedalizzazione, spiega Euronews Ahmad Haj Muhammad, coordinatore medico di Alima. Ruma Akilu è tra le madri del villaggio che utilizzano il MUAC già da qualche anno. La figlia Sharifa, 1 anno, soffre di malnutrizione acuta, moderata e Ruma misura il perimetro del braccio costantemente in modo che possa essere curata invece di peggiorare. Abbiamo un campo da coltivare, ma non produciamo abbastanza, quindi abbiamo bisogno di comprare del cibo, ma i soldi non ci bastano mai. Tra i miei 8 figli, 3 hanno sofferto di malnutrizione, spiega Ruma. Ogni 2 settimane Ruma percorre 12 chilometri che la separano dall'ambulatorio di Gaffati. Qui i bambini affetti da malnutrizione, come sua figlia, ricevono supplementi alimentari ad hoc e vengono monitorati dalle 8 alle 12 settimane. I monitoraggi effettuati dalle madri, si legge ancora su Euronews, hanno fatto impennare il numero dei pazienti con malnutrizione severa moderata negli ambulatori locali come questo. I casi di malnutrizione severa acuta nei primi sei mesi dell'anno sono diminuiti del 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, dice ancora Ahmad Ej Muhammad. I monitoraggi operati dalle mamme per il momento non hanno avuto però impatto a livello nazionale, rileva Euronews. Il numero dei bambini malnutriti è rimasto pressoché invariato negli ultimi anni. Registriamo tra gli 8 e 9 mila casi di malnutrizione severa acuta all'anno. Il mese peggiore è settembre, quando riceviamo una media di 1200 bambini, spiega Awau Usmane, capo infermiere dell'ospedale di Zinder. I'm the news that nobody expected. I was never a part of your plans. I'm the reason why life as you know it feels like it's slipping through your trembling hands. And the doctors say I'm just an option, a mistake you can make disappear. I may not have a voice, but I'm more than a choice. I'm as real as the heartbeat you hear. È il settembre 2011 quando Claire Fotheringham, ostetrica australiana, al suo primo incarico con Medici Senza Frontiere, arriva in Sierra Leone. Entrando nell'affollato reparto maternità dell'ospedale, racconta sul sito dell'ONG, ero del tutto impreparata a quello che avrei dovuto affrontare. Donne a un passo dalla morte che arrivavano con serie complicanze come emorragie gravi e shock settico. In sala operatoria, visitando molte di loro, riscontravo lesioni alla cervice dell'utero causate da oggetti appuntiti autorizzati per interrompere le gravidanze. Tutti esempi di aborti non sicuri che avevano provocato lesioni terribili. In questo contesto mi sono resa conto, prosegue, della disperazione che spingeva queste donne ad affrontare un'esperienza simile, di quanto limitate fossero le loro alternative. Erano disposte a ricorrere a qualsiasi mezzo per porre fine alla gestazione, pur conoscendo l'enorme rischio per la propria vita. Come ricostruisce Voci Globali, ogni anno, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, vengono praticati nel mondo 25 milioni di aborti non sicuri, 97% nei paesi in via di sviluppo. Il fenomeno, precisa MSF, rappresenta una delle prime 5 cause dirette di morte materna. Ben 22.000 donne perdono annualmente la vita in seguito a un aborto non sicuro, mentre 7 milioni soffrono di conseguenze fisiche a lungo termine. L'aborto non sicuro, in base alla definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, indica ogni intervento effettuato in un ambiente privo degli standard medico-sanitari minimi, ovvero da personale non qualificato che si avvale di metodi pericolosi come l'ingestione di sostanze caustiche, l'inserimento di corpi estranei e l'uso di intrugli tradizionali, si legge ancora su Voci Globali. I fattori che determinano il ricorso a tale pratica sono molteplici e non necessariamente legati alla presenza di leggi nazionali che vietano tout court l'interruzione volontaria di gravidanza. Certo, nei paesi in cui vige un divieto assoluto di aborto, 26 per la precisione, tra i quali in Europa, Andorra, Malta e San Marino, la donna non ha altra scelta se non quella di ricorrere a un intervento clandestino che nella maggior parte dei casi si traduce in un'operazione rischiosa per la sua salute e in una potenziale denuncia penale a suo carico. In El Salvador, ad esempio, il personale medico è obbligato a segnalare alle autorità di polizia le pazienti giunte in ospedale per un'emergenza ostetrica. Secondo il report Excluidas, Perseguidas, Encarceladas dell'organizzazione No Profit Center Reproductive Rights, la legge ecuadoregna è applicata in maniera talmente rigida che sorge la presunzione di colpevolezza ogni qualvolta una donna arriva in pronto soccorso con un'emorragia ginecologica, a prescindere se l'aborto sia stato o meno spontaneo. Richiedere assistenza sanitaria in contesti culturali ostili verso l'aborto non è affatto semplice. Nelle Filippine, rileva il Guttmacher Institute, le donne sono molto restie a chiedere aiuto perché provano vergogna e si sentono intimidite dagli operatori sanitari. Può anche succedere che le cure post-abortive vengano negate o effettuate senza la somministrazione di antidolorifici e l'anestesia, si legge ancora su Voci Globali. Lo stesso istituto conferma inoltre che laddove l'IVG è proibita si registrano ancora più alti tassi di aborti non sicuri. Nella Repubblica Dominicana si legge nel report It's Your Decision, It's Your Life di Human Rights Watch. Ogni anno circa 25.000 pazienti vengono curate per complicanze derivanti da aborti insicuri. Si tratta per lo più di donne e ragazze poco abbienti. Se sei povera, dice un medico dominicano, sei finita. Se hai denaro, invece, puoi permetterti un aborto sicuro ovunque. Lo stesso discorso vale per i paesi dove l'IVG è legale, solo in specifiche e limitatissime circostanze, scrive ancora Voci Globali. In 39 stati del mondo è possibile abortire se la gravidanza costituisce un grave pericolo per la vita della madre. 56 nazioni consentono l'aborto anche per preservare la salute fisica e o mentale della donna incinta. Queste leggi, già di per sé poco permissive, vengono anche interpretate in modo restrittivo, finendo con l'alimentare il mercato nero dell'aborto. Questo è il programma. There'd come a day when love would lead me to you. You've become my everything. I'm so happy to share my life with you. Maybe it's the way that you say I love you. Maybe it's just in your smile. But all I know is I've been waiting for you. Ma non si placano le proteste per la legge di riforma costituzionale che impedirebbe di fatto qualsiasi tentativo di legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso. In prima linea, si legge su Gay News, gli studenti universitari della capitale che mentre cercavano di forzare il cordone della polizia nell'area della sede dell'Assemblea Nazionale hanno lanciato razzi contro gli agenti. Successivamente sono scoppiati incidenti all'Università di Panama, dove gli studenti hanno eretto barricate e lanciato pietre contro la polizia. Le forze dell'ordine hanno reagito con spray al peperoncino e effettuato almeno 47 arresti. Tra le persone tratte in carcere ci sono il noto giornalista Franklin Robinson e Richard Morales, candidato sfidante di Laurentino Cortizo Cohen alle presidenziali del 1° luglio scorso, nonché alcuni minorenni. Anche diversi studenti dell'Università Cattolica di Santa Maria l'Antigua sono sotto custodia della polizia. L'ondata di protesta è montata martedì scorso all'indomani dell'approvazione da parte del Parlamento unicamerale del progetto di riforma della Costituzione del 1972. Inizialmente, si legge ancora su Gay News, questa riforma era stata oggetto di ampio consenso tra le forze politiche, valutata positivamente in riferimento tanto al rafforzamento delle istituzioni quanto alla lotta alla corruzione. Ai deputati hanno fortemente modificato il testo originale, includendo anche un articolo che impedisce la futura legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso, attualmente non riconosciuta a Panama, e conferisce poteri molto più ampi al Parlamento. Tali emendamenti hanno suscitato rabbia soprattutto tra i sindacati, associazioni umanitarie e movimento LGBT, al punto tale che lo stesso neopresidente della Repubblica, Laurentino Cortizo, ha ieri dichiarato: non permetterò che un articolo o chi che sia semini zizzania tra i panamensi. Il 30 ottobre lo stesso capo di Stato era già intervenuto stigmatizzando commenti e dichiarazioni omotransfobiche di alcuni parlamentari. Rispetto alla separazione dei poteri, così dice in un tweet, ma il rispetto è bidirezionale. Chiedo ai deputati di misurare le loro parole. La tolleranza verso le differenze e il rispetto della dignità umana nel mio governo non sono negoziabili. Panama appartiene a tutti. I know we're meant to be. I know the love you see. I know the trust I need is complete. È stato presentato in questi giorni a Lucca Comics and Games 2019 con Luciano Spinelli, testimonial di Amnesty International Italia, Hate Seek, i viaggi di Alter, o il videogioco che ha l'obiettivo di parlare ai ragazzi di discriminazione, odio e bullismo online in modo non didascalico, lo riporta un comunicato stampa di Amnesty International. Alter, il protagonista di questa avventura, sviluppata insieme a Steam Factory, è catapultato in un pianeta dove l'intolleranza ha preso il sopravvento a causa delle parole d'odio propagate in modo costante. Riuscirà nel tentativo di tornare a casa, ad aiutare i personaggi che popolano questo mondo, emarginati, isolati dalla comunità, non appena percepiti come diversi. Il videogioco, arricchito da ambientazioni e musiche retro, pensato fin dall'inizio coinvolgendo in modo diretto bambini e adolescenti sugli aspetti grafici, la musica, la trama, i dialoghi, è solo l'ultimo degli strumenti realizzati da Amnesty International Italia per contrastare l'odio online e hate speech. Come il barometro dell'odio, il tavolo dell'odio, la task force hate speech, monitoraggi dei social network con l'ausilio di centinaia di attivisti e spazi di confronto costante sul tema tra organizzazioni ed esperti. Luciano Spinelli è stato scelto da Amnesty International Italia come testimonial della campagna contro i discorsi dell'odio online e il cyberbullismo, tema da lui sempre caro, anche alla luce della sua esperienza personale. Classe 2000, volto amatissimo della generazione Z, Spinelli ha pubblicato il suo primo video su YouTube nel dicembre 2015, ottenendo da subito un grande successo. Il suo canale vanta oggi quasi 600.000 iscritti, proclamato nel 2017 Muser of the Year e con 7 milioni di follower su TikTok, il più seguito in Italia e tra i più seguiti a livello mondiale. Nel 2018 e nel 2019 viene nominato ai Kids Choice Awards come web star italiana preferita. Il suo account Instagram ha superato 1,5 milioni di followers e può vantare una delle fan base più attive e fedeli a Lucca Comics and Games. Amnesty International Italia è stata presente anche coi colori, le parole e le immagini dei collaboratori di Lucca Junior per presentare il 30° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso gli albi illustrati e una caccia al tesoro. I bambini hanno scoperto storie per aprire nuovi mondi, ponti verso l'immaginario e la creatività, per considerare anche i punti di vista dell'altro e i diritti umani come valori concreti e reali. E da parte nostra anche per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi. Appuntamento a domani con una nuova raffica di notizie. Torniamo sempre a parlare delle settimane complicate, l'avevamo detto, le due partite mercoledì a Cagliari e sabato con l'Inter. Onestamente ci pensavo di poter portare a casa dei punti. Ciò non è avvenuto, la prestazione diciamo così un po' difficile da decifrare di Cagliari si scontra invece con a mio avviso una buona partita, quella di sabato sera contro l'Inter, dove torniamo sempre a parlare delle stesse cose, vale a dire degli episodi, gli episodi che in un modo o nell'altro vanno sempre a penalizzare il Bologna. Bologna che perde 2-1 con l'Inter, lo fa con il rammarico, perché soprattutto nel secondo tempo, oltre al gol, aveva onestamente a un certo punto messo l'Inter in grosse difficoltà. Un Inter che nel primo tempo, oltre ai due gol annullati per fuori gioco, aveva visto anche il portiere rossoblu Scoruspi fare due belle parate. Poi avevamo il vantaggio che probabilmente è stato meritato dopo, un vantaggio con un tiro di Soriano deviato. E il Bologna, diciamo, lì va a concretizzare di più il suo vantaggio, e l'Inter va un po' in difficoltà, va un po' in confusione. E poi il gol del pareggio su un tap-in di Lukaku ridà vigore alla squadra di Antonio Conte. E poi una serie di imprecisioni, di leggerezze del Bologna fanno sì che arrivi questo rigore. Sempre abbastanza complicato andare a parlare di arbitraggi di VAR. Cerchiamo sempre allora di ragionare su quello che è accaduto prima. Quello che è accaduto prima è una palla di Mbaye che probabilmente poteva essere spazzata, visto anche le esperienze passate. E poi Orsolini tocca, non tocca, ognuno ha la propria versione. L'arbitro era molto vicino, è vero, non va al VAR, ma si ipotizza che il VAR abbia con un silent check dato il parere favorevole. Arriva il rigore quasi in scadenza e il Bologna rimane con un pugno di mosche in mano a livello di punti per la classifica. Rimane a mio avviso il fatto di una squadra che gioca sempre, che è sempre propositiva, ha probabilmente in questo momento in Orsolini un giocatore un po' in difficoltà che probabilmente vede pesare un po' una situazione dove è diventato protagonista e quindi non riesce ad avere continuità di rendimento. Ora venerdì si torna in campo, si va a Sassuolo, una gara dove il Bologna dovrebbe non trovare grosse difficoltà, perché Sassuolo è una squadra che gioca la palla e il Bologna, quando gli altri giocano, fa sicuramente molto meno fatica. E qui dobbiamo vedere un attimo di ritrovare anche il feeling con il gol e con il risultato. Io sono sempre positivo, nel senso che il giocare alla lunga paga. Veniamo da anni, dagli ultimi anni di Donadoni, dai primi sei mesi di Pippo Inzaghi, dove non si vedeva tanto giocare a pallone e non si tirava in porta e non si andava in area. Non a caso Bologna quest'anno ha già preso 6 rigori, quindi perché è sempre propositivo e in area ed è per rendersi pericoloso. Ora si torna a una partita alla settimana, ci cercherà di recuperare gli infortunati. Ieri sabato Medel si è visto un po', e vediamo di rimetterlo in campo. A mio avviso, io ho visto buone cose fatte da Svamber, che è un giocatore che mi sembra abbia trovato anche la convinzione dei propri mezzi. Non buttiamo via tutto quanto, manteniamo il gioco e proviamo venerdì andare in quel di Sassuolo e giocando, portando a casa un risultato che darebbe vita a una classifica che probabilmente vede qualche punto in meno di quelli che i rossoblù di Mihajlovic meriterebbero. Andiamo al basket. La Virtus anche lei veniva da una settimana molto complicata. Mercoledì una vittoria in Coppa contro Monaco, una vittoria sancita dalla prodezza del canestro allo scadere di Milos Teodosic, una partita che aveva visto i bianconeri quasi sempre sotto. Una gara che si temeva fosse molto dispendioso a livello non tanto fisico ma quanto mentale, ed arrivava un derby, quello di Reggio Emilia, dove storicamente la Virtus ha sempre fatto fatica, anche il campo dove ha trovato la prima retrocessione dal campo 4 anni fa, e quindi è sempre un po' del delicato. Partita vinta nettamente 7-9 a 5-9 con una grande impresa difensiva, come dimostra il punteggio finale, come dimostra le percentuali. Reggio Emilia finisce con 48% da 2, il 10% da 3, Virtus invece al 57% da 2, 25% da 3, continuando a un po' in alcuni giocatori litigare. Grande Gaines che alla fine ne fa 16, così come Ante, un Gaines che parte subito in grande spolvero e mette in difficoltà la squadra di Reggio Emilia. Ante all'inizio della panchina ne fa 16, con Monte Carlo non aveva giocato Wims e Kurnuper. Wims perché era andato negli Stati Uniti a trovare il padre, che è in grave condizioni di fisiche, e Cornu scavigliato. Ieri non ha giocato Gamble. De Lia alla fine ne fa 10, così come Wims. Bene Ricci che ne fa 12. Una Virtus che vince nonostante il duo Markovic Teodosic faccia 8 punti in 2, facendo 0 Markovic. Quindi chi in settimana si era domandato: questa squadra è troppo Teodosic dipendente? Beh, ha dimostrato che ciò non è vero. Vittoria numero 7 in campionato, imbattuta, una partita sicuramente quella di ieri che dà ulteriori certezze al gruppo. La Virtus che torna in campo mercoledì in Coppa contro Ulm, e domenica ore 18 l'esordio nella struttura in fiera. Siamo tutti molto curiosi di vedere e capire come sarà strutturata. Virtus che sicuramente avrà più avanti probabilmente dei passaggi a vuoto, perché non si può sempre pensare di lavorare con questa intensità sia mentale che fisica, però in questo momento si gode il primato in campionato in solitaria, in coppa, in coabitazione. Una squadra che ha dimostrato di avere grande carattere, di non starci mai a perdere, e vediamo fino a quando saprà coinvolgere a turno protagonisti diversi. Brutta invece la sconfitta della Fortitudo, che perde 7-4-8-8 contro Brescia. Lo fa in una partita che il suo coach nella conferenza stampa definisce, a mio avviso correttamente, squadra con poca energia, che non ha mai reagito diciamo così di testa, ma di pancia, con poca lucidità, con poca costanza ed impegno, ed ha subito parecchi in attacco. 88 punti in casa sono veramente tanti. Probabilmente la differenza è stata fatta che Brescia ha nelle proprie guardie giocatori molto molto fisici, e la Fortitudo in questo ambito patisce un po', perché alla fine Aradori 22, Robertson 11, così come Mancinelli, ma né Aradori né Robertson sono due giocatori di grande fisicità, e quindi quando si dovevano soprattutto appaiare in maniera in difesa, la difficoltà era abbastanza latente. Poi mi viso la Fortitudo in questo momento ha un deficit nel playmaker. Fantinelli è poco costante, è un giocatore che non cerca mai il canestro, che quindi nelle prime difficoltà va in difficoltà. Anche lo stesso Stipcevic non ha ancora preso, secondo me, le misure dei propri compagni, e oggi i lunghi hanno fatto fatica tutti quanti. Sims è stato redarguito in maniera pesante anche dal proprio coach, e nel finale non ha giocato. Dicevamo appunto dei lunghi, Daniel fa 2 punti, Sims ne fa 5, ma non entra mai in partita con una squadra, quella di di Brescia che sopravvince per di un punto soltanto i rimbalzi, però la Fortitudo non ha mai dato la sensazione di aver capito bene come si doveva giocare questa partita e quindi è stata sempre in balia, se non con qualche, come diceva l'allenatore, con qualche sprazzo in attacco, ma ha subito una condizione fisica che non mi è sembrata neanche tra le più lucide. Probabilmente essersi allenati in questi ultimi tempi con qualche giocatore che non c'era, non era al 100%, alla lunga si paga, perché molti allenatori sostengono che come ti alleni giochi. In questo momento la Fortitudo non mi sembra in grande spolvero tecnico. Vediamo, sicuramente non è una sconfitta da bollino rosso, perché è una cosa che ci può stare. Fino a qui il campionato della Fortitudo è stato molto molto positivo, lo è comunque, ma è il primo segnale che questa è la Serie A e sarà necessario che tutti i giocatori, come diceva coach Antimo Martini nel fine partita, se ne rendano conto per fare il meglio per il proseguo della stagione, altrimenti non può bastare il Paladozza come fortino se non giochi in una certa maniera. Per questa settimana è tutto, buona giornata. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. Vi sono occasioni nelle quali mi vergogno di appartenere al genere umano e questa è una di quelle. Mi è impossibile di riassumere le risultanze della difesa dato che la Corte non mi ha mai concesso di provare le mie argomentazioni. Contesta l'obiettività di questa Corte? Protesto che mi sia stato impedito di offrire delle testimonianze che considero vitali per la difesa. L'accusa non ha portato testimoni. Non è stato redatto un atto formale delle accuse mosse agli imputati. E infine protesto contro il fatto che non sia stato compilato un resoconto stenografico del processo. L'attacco di ieri mattina non è stato un'onta alla nostra bandiera, e meno che mai un disonore per i combattenti di questa nazione, ma questa corte marziale è un'onta e un disonore per la Francia. Un processo così condotto è un'offesa a ogni principio di giustizia. Signori della corte, dichiarandoli colpevoli, commettereste un delitto che vi ossessionerebbe fino alla fine dei vostri giorni. Non posso credere che il più nobile impulso dell'uomo, la pietà verso il prossimo, manchi completamente qui. Quindi vi prego umilmente, abbiate pietà di questi uomini. Gli imputati vengano scortati alla loro cella. L'udienza è chiusa. La corte si ritira per deliberare. Nessuna notizia. Purtroppo vi porto cattive notizie. Dovete prepararvi al peggio, il colonnello Dax mi ha pregato. No, no. È stato continuamente al telefono col quartier generale, ma non è riuscito a parlare col generale Brulard né con nessun altro che Conti. Lo stesso al comando di divisione, nessuno vuol farsi trovare. E questa era la scena, undecine finale di Orizzonti di Gloria, il bellissimo film di Stanley Kubrick, su questa mattanza, questo crimine di guerra senza fine che fu la prima guerra mondiale. Quindi oggi 4 novembre, che ancora impudicamente chiamiamo festa della vittoria, ma quale vittoria? Festa del massacro. E che, ahimè, oggi si celebra come il giorno dell'unità nazionale e la giornata delle forze armate. L'unità nelle tombe, quanto sembra. Basta, dicevo, girare nei paesi d'Italia, ci sono queste lapidi infinite con tutti i giovani, intere generazioni falciate in questi attacchi suicidi come quello raccontato bene in Orizzonti di Gloria, e con le tante corti marziali che hanno fatto secco chi non era morto nelle trincee. Quindi sarà solito omaggio all'altare della patria, la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, accompagnato dalle massime autorità. In piazza Venezia un'enorme bandiera avvolge la facciata di Palazzo Bonaparte. Le frecce tricolori immancabili concluderanno la manifestazione. Grande attenzione alla giornata nella programmazione di tutte le reti RAI, con collegamenti dalle numerose città italiane dove sono previste cerimonie. Io proietterei più volentieri che cerimonie retoriche e francamente fuori luogo. Proietterei film come Gallipoli,

industria locale. E allora il Fatto Quotidiano apre con tutte le balle sulla plastic tax, aziende in ginocchio, ma esiste in mezza Europa e non fa danni, anzi. Quindi chissà perché ciò che è devastante in Italia non va bene in Germania, in Francia, in Islanda. Dopo Renzi anche Bonaccini contro la microtassa ambientalista. La polemica è politica, non economica, l'impatto sui consumi sarà minimo, alle imprese andrà un credito d'imposta del 10%. Ecco perché sono tutte balle, spiega il Fatto Quotidiano. Alla faccia della svolta ambientalista, si cambia esenzioni più ampie, ma Gualtieri dice resta una norma giusta, legge di bilancio in Parlamento, l'argomentazione è presente, Italia Viva esulta, retromarcia, il ministro smentisce, allo studio anche lo slittamento dell'imposta, il governo riconosce imprese penalizzate, sì, no, quando si va a toccare il padrone, a pagina 6 di Repubblica, arrivano subito immediatamente dei retromarcia molto molto presenti, il sindacalista Michele De Palma e i protagonisti come Stefano Ciafani Fani di Lega Ambiente così dichiarano: il primo, contrapporre ecologia e lavoro è assurdo, non si cambia a colpi di tasse. Un'illusione pensare di affrontare un tema planetario risolvendo un problema di bilancio. Bonaccini sbaglia, quell'imposta è aumentata anni fa e la sua regione ne ha giovato. L'Emilia è l'occasione per riconvertire la produzione in chiave green. Sì, sempre quando si parla poi di chiave green e la svolta e poi ci si trova davanti a queste contraddizioni, certamente qualcosa che non va, c'è dai rifiuti un aiuto all'ambiente, invece l'editoriale della Stampa di Alberto Mingardi, come trasformarli in una risorsa. Subito però sopra l'articolo della Stampa, plastic tax, il governo ora frena, Bellanova giù i toni, il governo si dice pronto a rimodulare la plastic tax, ma anche a riflettere sulla sugar tax, sulla stangata prevista per le auto aziendali. Bonaccini, già citati in precedenza, a breve tavolo con il ministro Gualtieri che poi verrà in Emilia. Renzi certamente esulta di questo bailam, per 24 ore un fiume di polemiche contro di me, ora si torna indietro, e Bellanova cerca di abbassare i toni per quanto riguarda l'argomentazione. Il titolo principale del Carlino, col quale chiudo: tassa sulla plastica, il governo frena, Gualtieri dice va rimodulata, Renzi di tutto ciò esulta, lo scontro tra Movimento 5 Stelle e PD certo, e Zingaretti dice basta furbizie. Da pagina 2 a pagina 4 a pagina 5, togliete il balzello o il PD rischia alle urne, appunto dicevo prima, quando si vanno a toccare determinate situazioni, la packaging valley emiliana è in trincea. Pianesani dell'ILPA, amministratore delegato del gruppo ILPA, le aziende hanno paura di finire in ginocchio, non va demonizzata la plastica, così dichiara. No, non sta facendo zero danni, guarda. No, anzi crea delle meravigliose isole naviganti nell'Oceano Indiano. Comunque, su queste nuove energie in tutti i sensi, sia ecologiche che umane, interviene Stefania Bernini e Jan Zelowska dell'Università del Venezia Ca' Foscari e l'Università di Oxford, messe in qualche modo in un girotondo tra un cenno a quell'altro, che scrivono: la democrazia ha bisogno anche di chi non può votare. La vera novità del movimento innescato da Greta sui temi ambientali è che sta costringendo la politica a considerare le istanze di chi ha diritti di cittadinanza limitati come i minori e gli immigrati. C'è, e qui si viene una realtà mediatica, viene messa sotto attenzione, c'è chi intima, dicono questi due ricercatori, c'è chi intima la ragazza svedese di tacere, chi la esalta, ma non sempre santificare equivale ad ascoltare, sembra così sentire appunto il grido della Leopolda. Ricicla, riusa, la la la la la la la e ricicla, riusa, la la la la la la la e ricicla, riusa, la la la la la la la e ricicla, riusa, la la la la la la e finalmente la gente ha capito che è importante l'ambiente, e siccome siamo tanti mettiamoci i guanti e ripuliamo l'Italia, avanti! Ogni rifiuto al suo cassonetto, è la raccolta differenziata che dà l'effetto. Come ti butta bene, se in giro vedo più pulito vuol dire che si butta bene. Ricicliamo lo sporco che ci sopprime, organico, carta, vetro, plastiche e latine. Così si differenzia l'altra spazzatura, si chiama differenziata questa procedura. Troppo internet, la gente si distrae, ti sei rotto il computer, ricicla il RAE. Tanto poi è roba che si ritrova, usiamo una cosa vecchia per rifarne una nuova. Non mi rifiuto, voglio la mia terra pulita. Non mi rifiuto, voglio respirare la vita. Non mi rifiuto di fare la raccolta differenziata. Basta un minuto per ripulire la mia giornata. situazione ecologica. Per fare tutto quel lavoro dietro c'è una cosa logica. Me l'ha detto uno spazzino in pensione che ha passato 40 anni dentro quello stanzone. Differenza sempre più le batterie, così poi raddoppiamo anche le energie. Se poi vogliamo dirla tutta, lo sai che ricicliamo il 70% di quello che si butta. Ma alla fine è proprio questo quello che importa, fare tutti la raccolta porta a porta. Il riciclo non ha fine, possiamo fare una bicicletta con 800 lattine. Lo fai per te, lo fai per me, lo fai per tutti. È l'aria che respiriamo che ci dà i frutti. Spargi la voce, non i rifiuti. Dai, guarda quanti siamo, ci aiuti. Non mi rifiuto, voglio la mia terra pulita. Non mi rifiuto, voglio respirare la vita. Non mi rifiuto di fare la raccolta differenziata. Basta un minuto per ripulire la mia giornata. Ricicla, riusa. Non mi rifiuto. Ricicla, riusa, la e... E allora andiamo a possiamo vincere l'Emilia non è l'Umbria, se il 5 Stelle non dialoga resterà marginale. Questo è Bonaccini, il governatore uscente proposto dal centro-sinistra come rientrante per l'Emilia Romagna, che sarà la prossima sfida regionale, un po' tutti dicono il banco di prova dell'assalto al governo e non solo dalla regione della destra. No le nuove tasse, confidi in una soluzione. E questo spauracchio delle tasse per scendere comunque è una parola tabù oramai, tasse, anche la tassa magari più giusta e più fatta pagare a quelli che non mai pagate diventa una tassa orribile, e avanti così. Allora la bandiera rotta che non trionfa più, al voto, dice Storico Pertina al Fatto Quotidiano. Da Marzabotta a Bologna, nei luoghi simbolo della resistenza, sembra essere la paura a regnare, domina la rassegnazione alla Lega che avanza in massa. E tanto per rimanere nella cartolina, qui c'è Marzabotto che appunto è il luogo simbolo dello sterminio nazista, poi a Bologna viene messo invece lo stile da Vito, circolarci Benassi, sono il famoso antipasto di Vito antifascista. Comunque poi c'è Gattati come il Museo Cervi a Cavriago, Piazza Leni, insomma tutte le cose che hanno fatto la felicità di chi andava a cercare Peppone Don Camillo. La grande sfida, dopo il tonfo dei giallorosi in Umbria, per Salvini la fortezza da espugnare l'Emilia Romagna, regione rossa per antonomasia, a gennaio le elezioni decisive. E ancora su questo tema andiamo invece all'altra parte dello schieramento. Berlusconi chiama l'altra Italia, chiama il Carroccio nel PPE, e quindi mentre l'altro giorno Salvini ha deluso tutti, no, non entro nel PPE, rimango tra i sovranisti. Il leader si fede di Conforti Italia, il mio successore uscirà da lì, raccoglierà ben poco se va avanti così il successore di Berlusconi. Salvini decido resta marginale, anche questo è bellissimo, Salvini marginale adesso, mi sembra Berlusconi che abbia sbagliato pusher, ma Matteo non ci sta, racconta il giornale. Se io comincio invece questa analisi da pagina 4 che Repubblica ogni lunedì riporta addentrandosi nella politica interna, e troviamo già dalla prima pagina la nuova frontiera, Europa dovrà fare patti con i sovranisti, e poi la realtà di scomparire al centro, il centro scompare non solo in Parlamento. Beh, è un'autocritica magari di analisi per quanto riguarda le politiche adottate da un'ipotetica sinistra o centro-sinistra finora, che ha sempre seguito la destra, potrebbe per caso aver contribuito a far sparire quel barlume di socialdemocrazia che c'era? Punto di domanda. Beh, direi di sì. L'area politica che era nelle mani della DC ormai vale solo il 10%, ricordate, sfiorava, anzi a volte superava anche il 30%. E le regioni che una volta erano rosse stanno ormai cambiando colore. Qui l'identificazione con i soliti schemini che vengono riportati a colori di un'Italia che diventa sempre più con due colori tra Lega e Movimento 5 Stelle, purtroppo a maggioranza Lega nelle ultime realtà. Nell'Italia digitale, questa è l'Italia digitale, finale per quanto riguarda la schematizzazione, ma purtroppo è sempre più anche un'Italia reale, ma certamente non è innocente chi è stato protagonista finora a centro-sinistra per questo scomparire di un centro. La stampa invece, per quanto riguarda le realtà di politica interna che prendiamo e poi troviamo ad arrivare fino alla destra, partendo da Teresa Bellanova, ministra dell'agricoltura di Italia Viva, noi poniamo questioni vere. È bene che tutti abbassino i toni. I penultimatum di Zingaretti tolgono credibilità alla politica. Poi il PD fiuta una trappola di Renzi, ma è pronto ad andare al voto. Non so fino a che punto questo coraggio possa ripagare. L'allarme è già scattato nel quartier generale del segretario. Il leader di Italia Viva vorrebbe sostituire Conte con Franceschini. Allora vediamo se da Repubblica, oltre che questa analisi a schema, abbiamo anche qualcosa che ci riporta alla politica interna vera e propria, e non solo di, come si può dire, pronostico. Ecco, quindi a lunedì, come ben sappiamo, i reportage la fanno da padrone sulle prime pagine dei quotidiani, dal Fatto Quotidiano appunto a Repubblica, e vediamo che invece parla a conti fatti in primo piano sul cuneo fiscale. Nel mirino renziano, a proposito di Renzi di cui abbiamo parlato in precedenza, è la manovra a rischio. Martin, niente agguati, slitti di 3 mesi, ma Conte teme un incidente nel percorso al Senato, già prima con le dichiarazioni, certo inviso Conte anche a Renzi. Abbiamo parlato di destra, la riprendiamo e concludiamo questo intervento dal Carlino. Le scelte dei partiti, svolta di Berlusconi, presto il mio successore, già citata da Alfredo questa argomentazione, ufficializzata la nascita di Altra Italia, un nuovo soggetto federato con gli azzurri, giovani della società civile, Forza Italia è in fibrillazione. Ufficializzata la nascita di Altra Italia, un soggetto federato con gli azzurri, insomma. Qui ritratta in fotografia Berlusconi, penso alla creazione di 2 o 3 nuclei per ogni regione, prendendo il meglio delle liste civiche. La benedizione, attenzione perché la Chiesa chiaramente qui si spaccherà, immagino, Ruini elogia Salvini e lui ringrazia. L'ex presidente della CE, il cardinal Ruini, invita la Chiesa a dialogare con Matteo Salvini e sdogana l'ostentazione del rosario, frasi che mandano in fibrillazione i moderati del centrodestra. L'88enne cardinale liquida anche il tentativo del possibile Partito Cattolico, che in questi giorni ha mosso i primi passi con il manifesto a cui hanno aderito 500 tra associazioni e singoli esponenti cattolici. Salvini, che appena sabato aveva irriso i vescovoni, adesso però incassa soddisfatto. Lo ringrazio, dice, spero anche di poterlo incontrare. Sì, lo scontro feroce che c'è nella Chiesa esplode anche nella politica italiana, con Ruini che è notoriamente il capofila della destra reazionaria vaticana. Dialogare con Salvini e la Chiesa si spacca, dice il giornale. L'intervista al Corriere in cui il cardinale Ruini invitava la Chiesa a dialogare con Salvini ha spaccato il mondo cattolico. Nonostante il dialogo sia il cardine del cristianesimo, altrimenti il giornale si schiera con Salvini e con Ruini, no? È impensabile il contrario, la parte più progressista del clero, che fa riferimento a Papa Francesco, ha preso le distanze dal porporato. Con Salvini il ragionamento non si tratta e non si dialoga, che in realtà non è così, ma insomma questa è la semplificazione del Corriere per i suoi lettori. Ma il dialogo con Salvini è difficile, dice Virginia Piccolillo nell'intervista a Monsignor Mogavero, cardinale che è un altro degli esponenti. Che questa volta più vicina a Bergoglio sicuramente, perché dice Monsignor Mogavero, nel Vangelo si parla di accoglienza, non di respingere i migranti, si parla di dar da bere gli assetati, dar da mangiare gli affamati, vestire gli ignudi, eccetera eccetera. Non mi sembra esattamente la filosofia di Salvini, neanche di Cardinal Ruini, quanto sembra. Il dibattito della Chiesa, Ruini ha fatto bene ad aprire il dibattito, ora apriamo, dobbiamo uscire tutti allo scoperto, dice questo 72enne vescovo di Marzara del Vallo Mogavero. E c'è in tutto questo naturalmente nella ostentazione dei rosari, nel convegno sulla famiglia di Pilona Veron, c'è tutta una malinconia della Chiesa dei bei tempi, quando la sacralità non era in discussione. Per cui vengo alla storia copertina della seconda del Fatto Quotidiano: Santissime percosse, ecco, spirito tuo, botte paure i nostri figli nella scuola delle suore. Quanti sono passati nella scuola delle suore e hanno vissuto questa lezione? Le telecamere messe dagli agenti hanno filmato l'orrore della direttrice sotto inchiesta, è stata trasferita in una primaria di Torino, sempre delle religiose. Questo è una di tante cose. I racconti dei genitori, bambini picchiati, legati, chiusi negli armadietti, tutto ripreso dalla polizia, arresti indagati nella materna delle francescane Angeline. E sempre in questa voglia di ritorno agli anni 50 c'è anche questa preghiera che si è voluta a Bologna per i bambini mai nati, una volta era tipico dell'Aquila, della parte più reazionaria del centro Italia. Adesso anche a Bologna il Giovanni XXIII, questa comunità, ha fatto una preghiera il 2 novembre, giorno dei morti, per bambini mai nati, e quindi contro l'aborto. E allora leggiamo su questo, sullo stato della legge 194, intervista, riproponiamo l'intervista a Deborah di Mujer Libre, che ascoltiamo qualche sua parola. Diciamo che la Papa Giovanni XXIII è tornata con questa triste pratica delle preghiere per i bambini mai nati. Papa Giovanni XXIII, che diciamo è conosciuto ormai in città per questa pratica delle preghiere, la prima riflessione che mi viene in mente a me e ovviamente anche alle mie compagne è quella della questione del linguaggio, cioè questi movimenti antiabortisti che chiaramente attaccano la possibilità delle donne di autodeterminarsi, si nascondono dietro nomi, titoli date le loro iniziative che sembrano positivi, basta pensare a pro-life, preghiera per i bambini mai nati, eccetera, cioè la loro preghiera per i bambini mai nati è chiaramente un presidio antiabortista, però lo chiamano per bambini mai nati perché sembra più semplice, la cosa più buona, diciamo. In realtà sono pratiche pubbliche che mettono appunto nel pubblico una fortissima critica alle donne che decidono di abortire, perché ovviamente le fa passare per degli assassine, perché ricordiamo bene che questi sono i termini usati da loro. Equiparare un feto a un bambino, visione. Perché la donna che abortisce è un omicida, stanno dicendo questo. Ovviamente non è che sono gli estremisti della Chiesa, cioè il mondo cattolico assolutamente convive con queste anime strettamente reazionarie. Basti pensare anche all'appoggio di Papa Francesco, il Papa di sinistra, ai famosi cimiteri degli angeli, i giardini degli angeli, che sono praticamente i cimiteri dei feti, anche qui chiamati non parchetto per mettere il prodotto di un'interruzione volontaria di gravidanza, ma giardino degli angeli. Ecco, questi linguaggi sono pericolosissimi, bisogna assolutamente smascherarli, perché bisogna far vedere le cose come stanno, cioè tutti questi atti pubblici o meno, tutte queste iniziative, l'appoggio a queste persone vuol dire condannare ancora una volta la possibilità delle donne di decidere per sé stesse, condannare la legge 194 che garantisce la possibilità alle donne di poter abortire. Una legge 194 che ricordiamo non è mai abbastanza, non lo è stato, perché ancora l'articolo 9 garantisce ai medici di aversi l'obiezione di coscienza per rifiutare la pratica dell'introduzione volontaria di gravidanza alle donne. Tutte queste cose messe insieme, obiezione di coscienza, preghiere per i bambini mai nati e il giardino degli angeli e parlare di vita quando non è vita, contribuisce solo a dire le donne non possono fare quello che vogliono del proprio corpo, è semplicemente un controllo sui corpi di tutte e tutti, però, perché tramite la battaglia per l'aborto, che vuol dire sul mio corpo faccio quello che voglio, passa la libertà individuale di tutte e tutti per quanto riguarda appunto l'autodeterminazione in generale. Perché e questo era appunto l'intervento legato al tema dell'aborto di Deborah di Mujer Libres, le donne libere. Ma veniamo a persone che libere me non sono. Il dossier sui migranti ci porta col Fatto Quotidiano in Grecia. Sbarchi, il caos in Grecia. Campo di Samos, ecco l'inferno per gli immigrati. A confine d'Europa, tra container previsti 648 posti e tendopoli, oltre 6.000 stranieri attendono una risposta alla domanda di asilo in una situazione ormai insostenibile, con risse e allarme sanitario. Naturalmente tratti le persone come bestie e poi dopo le criminalizza se come bestie si comportano. La sanità, l'ospedale con 123 posti letto ha registrato da inizio anno 12.000 visite ambulatoriali, questa è la descrizione di questo campo profughi in Grecia. Il ricatto Erdogan dalla Turchia, non rispetti i patti con l'Unione Europea, minaccia un'invasione, gli sbarchi dalla Turchia continuano, questo è il grande ricatto sulla guerra siriana, è il tema che poi ci porta in Italia evidentemente con l'Ocean Viking che è approdata a Pozzallo, e ogni volta che approda un migrante ci fanno un servizio sopra la TV, in modo che sembrano 10 volte di più, anzi 100 volte di più, e si avvale l'idea dell'invasione. Ma il giornale questa mattina invece ci parla di questo tema, perché il giornale è come l'elefante, non si dimentica nulla. E Carola Rackete non se l'è dimenticata. Allora, no a carne, aerei, vestiti, il mondo horror di Carola. Questa è una foto della prima pagina di quella che ha avuto l'ardire di entrare in Italia e dire no a Salvini, questa è la sua vera colpa. Dunque, il mondo si può migliorare, cari lettori, dice Francesco Maria Del Vigo. Siete voi che lo abbiamo rovinato col vostro schifoso benessere, avanti così. Dovete smettere di consumare, toglietevi quel pezzo di carne che state per mettervi in bocca, animali. Affamatori, smettetela di comprare vestiti nuovi, usate per anni gli stressi di quattro stracci, poco importa se puzzano e fanno schifo. Cioè, questo è il tema dell'articolo. Poi andiamo a vedere cosa dice in questo libro Carola, che pontifica Che Guevara, quindi beh, Carola sono di sinistra, quindi le città hanno bisogno di proteste di massa ed è il maggior disturbo dell'ordine pubblico possibile. Qui ci metti un po' di sospensione perché il giornale è già scandalizzato. Quindi il conflitto. Viviamo nell'epoca nella quale l'ordine è sbagliato e distruttivo, concetti altissimi, praticamente il casino come filosofia e ideologia politica. Questo è il commento naturalmente fuori campo del giornale. Ma torniamo alle parole di Carola. Disturbiamo i governi, la più grande preoccupazione consiste nel mantenere alti livelli di crescita e non dover condividere le loro ricchezze. Disturbiamo i colossi dell'energia, anche qui c'è punti di sospensione perché è scandalizzatissimo, vai a toccare il petrolio. Disturbiamo industrie ed imprese, se li lasciamo fare permettiamo che le persone affoghino il Mediterraneo e per le strade si sono esposte alla violenza di destra. Disturbiamo, ma per buoni motivi. E qui il commento. La rottura dei coglioni del prossimo, cittadina, impresa, istituzione, è il mito della decrescita elevata ragione di vita e istituzione politica. Carola, la disturbatrice globale, una specie di Paolini 2.0 scappato dal piccolo schermo. Il problema è che lei si prende uno sul serio e trova sponda nella solita colta di radical chic che amano giocare la rivoluzione nel salotto di casa proprio. Mi sembra che Carola fosse nel suo salotto, eh? Era in mezzo ai marosi, al freddo, e comunque andiamo avanti. Forse è Del Vigo che scrive da un salotto dell'estrema destra milanese, ma andiamo avanti. Il mio ingresso a Lampedusa ha suscitato scalpore grazie alle cronache dei media e generato un dilemma, dice ancora Carola. Si è visto che da parte c'era qualcuno che difendeva i diritti umani e dall'altra governi che li violavano. Non c'è nessun dilemma, cara Carola, così conclude il giornale. Violare le leggi di uno Stato sovrano, sperronare una nave militare e traghettare tre scafisti non è un atto rivoluzionario, è un atto criminale. E pensare di essere dalla parte della regione è da cretini. Questo è il commento su Carola. Ma naturalmente uno dei primi temi di questo governo era cancellare le leggi di sicurezza di Salvini, tema andato dimenticato nel dimenticatoio, ritratto fuori da Zingaretti ultimamente, quindi anche noi lo riprendiamo. Sono leggi da cambiare o da modificare? Ne parliamo con Pietro Panico, operatore legale dei progetti Sprar in Calabria e collaboratore di Melting Pot, che comincia a commentare dalle sottolineature e rilevazioni che Mattarella stesso dal Quirinale aveva fatto al decreto Salvini. Sentiamo. Radio Onda d'Urto, andiamo allora a parlare delle leggi Salvini. In collegamento telefonico con noi c'è Pietro Panico da Cosenza, lui è un operatore legale negli Sprar, oltre che collaboratore anche di Melting Pot. Una buona giornata, Pietro. E a tutti gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto. Buongiorno, allora con te per parlare delle leggi Salvini, in particolar modo prendiamo spunto da un'intervista, tra l'altro anche stamattina, dalla Morgese sulle pagine della Repubblica. Scrive, dice, insomma riporta il quotidiano, a domanda del giornalista che l'ha intervista: state pensando modifiche dei decreti legge sicurezza? E dice occorre rendere conformi i testi a tutte le osservazioni che sono arrivate dal Presidente della Repubblica, spero si possa intervenire entro fine anno. Beh, la prima domanda che ti facciamo è proprio: ci spieghi quali sono le osservazioni arrivate dal Presidente della Repubblica e come cambierebbero le leggi sicurezza di Salvini? Il Presidente della Repubblica Mattarella l'8/8/2019 ha fatto appunto delle osservazioni riguardo il decreto sicurezza, poi convertito in legge. Una considerazione che ha fatto è proprio per quanto riguarda l'immigrazione. Sono delle note severe da parte del Presidente della Repubblica, poiché afferma che la legge Salvini non ha introdotto alcun criterio che distingua tra la tipologia delle navi, perché il decreto Salvini parla delle navi ONG equiparandole a navi da guerra oppure a navi pirata, e l'osservazione di Mattarella è proprio questa: non c'è una distinzione all'interno della legge. E aggiunge: non è stato introdotto alcun criterio sulle ragioni della presenza di persone accolte a bordo e trasportate. Quindi fondamentalmente dice: voi però non spiegate il perché queste imbarcazioni umanitarie hanno a bordo persone future richiedenti asilo. Inoltre, altra nota del Presidente della Repubblica afferma che la sanzione amministrativa pecuniaria è troppo grande, poiché una sanzione amministrativa pecuniaria applicabile è stata aumentata di 15 volte nel minimo e di 20 volte nel massimo, ed sono numeri esagerati. Inoltre Mattarella sottolinea che la Corte Costituzionale, con recente sentenza 112/2019, ha proprio ribadito la necessaria proporzionalità tra sanzioni e comportamenti. Il Presidente si richiama alla UNCLOS articolo 2, dove proprio articolo che afferma che il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e quindi a prestare soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo. Questo è molto importante perché appunto Mattarella cita la normativa internazionale che è gerarchicamente superiore logicamente alla normativa nazionale che invece all'interno del decreto Salvini ha ribaltato la legge, perché viene reso legale l'omissione di soccorso, mentre viene resa illegale il salvataggio che invece la normativa internazionale ritiene imprescindibile. Anzi, la normativa internazionale afferma anche che il salvataggio deve avvenire rapidamente, il più rapidamente possibile. Inoltre, sempre Mattarella afferma che il decreto non rispetta la necessaria proporzionalità tra sanzioni e comportamenti. Personalmente penso che siano dei dettami molto chiari da parte del Presidente della Repubblica ed è un richiamo molto severo nei confronti di un decreto convertito in legge che non è assolutamente applicabile in uno Stato che si definisce di diritto, anche perché la stessa legge Salvini è impiantata anche sul ritenere la Libia porto sicuro. Perché fondamentalmente dice: voi non dovete, oltre che non dovete salvare, se li salvate li dovete riportare in Libia. E come sappiamo la Libia non è un posto sicuro, soprattutto diventano urgenti dei cambiamenti al decreto sicurezza, e quindi non ritenere la Libia un posto terzo sicuro, anche a seguito del decreto libico 1034/2019, che è un'aggressiva normativa nei confronti dell'Italia, dell'ONG e dell'Europa. Decreto libico appunto articolato in 18 articoli che afferma che ogni operazione di salvataggio deve essere svolta seguendo i dettami della Guardia Costiera Libica, di cui il capo da 7-8 giorni è il boss Bija. Quindi diventa un po' inapplicabile come decreto. Per esempio prevede che sempre questo decreto libico, che qualunque imbarcazione umanitaria, se non rispetta gli ordini della Guardia Costiera Libica, verrà portata nei porti libici. È un atto aggressivo, e quindi questo atto aggressivo deve far sì che l'Italia cerchi di cambiare sia la normativa nazionale, quindi il decreto sicurezza, sia non faccia accordi con questi mafiosi. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. Tornando in diretta, ringraziamo Radio Donda d'Urto per il servizio fornito e continuiamo a parlare di ambiente, continuiamo a parlare di manifestazioni esasperate del clima, allagamenti, frane, trombe d'aria, scatta l'allarme in Liguria. L'immagine tratta da Borghetto di Vara, in provincia di La Spezia, dopo l'esondazione del fiume Vara. Non solo, sappiamo benissimo che questa è una stagione dove le piogge sono più frequenti, certo vi sono manifestazioni, come ho detto prima, forti, Ma ciò non toglie che anche la manutenzione ordinaria di tombini, ponti è completamente dimenticata. State a casa, Liguria e Toscana sott'acqua, dice il Carlino. L'appello dei sindaci ai cittadini, trombe d'aria, ecco già questo non è certo ordinario. Fiumi esondati e danni nello Spezzino e nel Pisano. Neve in Piemonte, paura in Campania. Alberi caduti e incidenti a Roma, oggi allerta arancione in 3 regioni. Anche qui le immagini riprese da Carlino non sono certo rassicuranti. Riprendo Repubblica per andare a pagina 12 e vedere l'approfondimento di tale argomentazione. Trombe d'aria, piogge sulla Liguria, torna l'incubo dell'alluvione, tra l'altro in una zona geografica dove frequenti sono le piogge. Gli allagamenti hanno mandato in tilt l'ospedale di Sanremo. Il sindaco di Sestri Levante ha chiesto ai cittadini di restare a casa. Non è certo una soluzione questa. Sestriere si sveglia sotto un manto di neve sulle montagne torinesi. L'effetto più appariscente della perturbazione atlantica che ha fatto danni in Liguria è stato l'arrivo della prima neve della stagione sotto i 2000 metri. Dopo un ottobre tiepido, il repentino cambio e il crollo delle temperature ha portato anche questo. Per quanto riguarda invece Repubblica, per andare verso la conclusione di tale realtà, riporta la fotografia. La regione travolta dalle inondazioni, allarme sulla costa, aggiunge altre 2 località, Portofino e Sarzana. E visto che parliamo di inverno, vengo a novità sul versante di riscaldamento ambiente che ci viene insegnato dal Fatto Quotidiano. Caldaie, valvole e termosifoni tra controlli e nuovi obblighi. Ormai i controlli sono perenni, almeno speriamo che limitino il consumo energetico. Entro il 2026 i dispositivi installati presso le abitazioni dovranno essere letti da remoto, che molti non sanno cosa sia remoto se non un passato remoto, però insomma diciamo che facciamo parte della rete e dei computer. 150 euro l'esborso medio pagato dalle famiglie per la manutenzione dell'impianto autonomo. Questo tipo di intervento varia da 70 euro ai 120 euro, mentre quello di efficienza energetica va dai 60 ai dai 40 ai 60 euro. Milano è la città più cara. Anche qui non si capisce perché sono differenti di prezzi, ma insomma siamo in Italia. La critica: appena 2 anni fa è stato introdotto l'esoso sistema dei contabilizzatori. Prima di andare agli esteri, transito per gli esteri perché il valore è mondiale, sui morti di lavoro, quelli che muoiono per portarsi a casa un salario per sfamare sé la propria famiglia. Strage annunciato, morire per vivere, dice il Fatto Quotidiano ancora con Nicola Borzi. Lavoro, ecatombe mondiale, ogni giorno 7500 morti, e si dice che è una guerra per il lavoro, direi proprio una guerra. In un anno 2,78 milioni di decessi tra incidenti e malattie, 1133 in Italia, una piaga che costa ai cittadini 3200 miliardi di dollari, miliardi. Nel nostro paese quest'anno le ispezioni sono calate del 9%, quindi aumentano gli incidenti e calano le ispezioni, direi che non è casuale. La carneficina è cresciuta del 20% in 3 anni, 2,33 milioni di decessi nel 2014, quasi 3 milioni nel 2017, una guerra che stiamo perdendo. Nel 2013 il crollo dell'edificio Rana Plaza, che ospitava 5 fabbriche in Bangladesh, uccise 1132 persone. Vado io all'estero con un'altra commemorazione, quella del 8-9 novembre, la caduta del muro di Berlino, 1989-2019, pagina 11, La Stampa, l'Europa dell'Est 30 anni dopo il muro, libertà e democrazia qui sono a rischio. L'anticipazione del report di Open Society, cittadini preoccupati per la scarsa trasparenza dei processi elettorali, rabbia ovviamente per una grande corruzione crescente, PIL e salari in crescita contrastano con la percezione diffusa di una minore libertà e non solo, anche i problemi di lavoro, le grandi città che vengono abbandonate, la piaga dell'alcolismo, l'abbandono più totale per i ceti più deboli, una divisione in caste e una divisione tra ricchi e poveri assolutamente presente, e vediamo come una nostalgia sia assolutamente presente da Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Romania. Il problema è questo, che diventa poi una nostalgia dettata da cattivi maestri. Ne abbiamo fatto un approfondimento anche stamattina nei magazine. È una nostalgia che porta poi paradossalmente a un sovranismo, a un populismo più violento, più forte, più radicato e più schierato, insomma. E questo certamente non è motivo di progresso. Questi 7 paesi dell'est, del centro Europa, Bulgaria, Romania, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Germania, scattata dall'Open Society Foundation, ha visto appunto i cittadini dell'Europa uscite dalla cortina di ferro dopo il 1989, che con sondaggi, insomma, trattano argomentazioni come migranti, lavoro, passato, presente, ne saltano fuori dei dati interessanti. Vi è uno per quanto riguarda il parere, poi i sondaggi valgono quello che valgono, però vi è un po' il parametro 1-1 per quanto riguarda passato e presente, tra quello che c'è stato e quello che vi è ora. Ma per quello che sono le grandi città, per quello che ho detto prima delle grandi città che vengono abbandonate, e quello che ci si butta poi nelle braccia dei cattivi maestri, ad esempio la Turingia, ad esempio Dresda, siamo a pagina 11 della Repubblica, alla messa contro l'onda nera Dresda rifiuti l'estremismo. Nella città tedesca, dopo la risoluzione antinazzi votata dal consiglio cittadino, qua la destra si nutre del mito delle vittime delle notti di fuoco del 1945. C'è chi teme che la mozione danneggi l'immagine della città, così si sdrammatizza su un fenomeno che spinge le linee rosse sempre più in là. Dimostranti di questo partito neonazista vengono prese a centropagina in fotografia. La tappa della crisi, le elezioni in Turingia, la mozione a Dresda e l'atto terroristico ad Halle l'8 ottobre, quindi giorno dello Yom Kippur, festività ebraica, un uomo armato tenta di fare irruzione nella sinagoga di Halle, ma non riesce e uccide due passanti. Si tratta del neonazista Stéphane Baillet. Tutto questo succede nella ex DDR. E come sempre, mentre i ragazzi si manifestano per le strade per il clima, le cose tra i potenti vanno all'inverso. Leggo da questa mattina: Russia e Cina no alle riserve in Antartide, perché lo vogliono sfruttare sia per le materie prime sia per i trasporti navali. Questo grazie al scioglimento dei ghiacci. Fallito per l'ottava volta, il tentativo guidato da Australia e Unione Europea di dichiarare un parco marino protetto di 1.000.000 km² ad est dell'Antartide. Nella riunione della Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide è mancato il voto unanime per lo stop di Cina e anche di Russia. La Commissione ha comunque imposto il divieto di pescherecci di disperdere plastiche e carburanti nelle Antartiche, tra i più incontaminati, tra le più vulnerabili al mondo, e abitata cruciale per pinguini, foche, balene e uccelli. Questa è la notizia. L'altra notizia che ci ricorda come domini ancora nel mondo degli idrocarburi, il debutto in borsa del petrolio saudita, così Bin Salman cambia il regno. Circa l'1-2% dell'Aramco sarà quotata a breve, per adesso per la borsa di Riyadh si parla di arrivare a un 5% e di grandi introiti, per, dice il principe Salman, il fascista golpista, per modernizzare il paese. A me sembra per comprare molte armi, ma questo è un giudizio che vedi guardando il resto della vicenda medio orientale. Però invece tutto questo, cosa ci stupisce il Corriere, perché è bello, le gerarchie delle informazioni del Corriere sono bellissime, ma dei giornali in generale. Torneo a Gata, la sorpresa degli egiziani nello squash. Ora io non so, perché sembra che gli egiziani sono fortissimi nello squash e vincono sia nel livello maschile che nel livello femminile. Non so dove stia la sorpresa, perché gli egiziani non possono giocare a squash, questo non so. Comunque, secondo il New York Times potrebbe addirittura trattarsi di un mistero, niente maledizione di Faraone, però anche se i mondiali sono svolti vicino alle piramidi di Giza, i primi quattro uomini della classifica mondiale di squash sono egiziani, e le donne pure. Oh, che meraviglia, chissà perché, bravi, non so cosa dire. Ma veniamo invece al, non lo squash ma lo squash, cioè parliamo di i tori laburisti nella corsa elettorale. Quindi Boris Johnson, squash, Boris Bojo, così viene chiamato adesso in modo amicale dai suoi fans come Francesco Angeli del giornale, Bojo ha cerchiato per dei punti, Westminster rischia la spalude, margine tra Tory Labour in singola cifra, sarebbe l'8% i punti di vantaggio di Boris Johnson, erano il 18 fino a due settimane fa, quindi c'è un trend che davvero può spaventare, anche perché non riuscendo a chiudere la hard Brexit in tempi utili per l'elezione, Farage dell'UKIP non corre ma ruba voti, e siccome in Regno Unito sono collegi a maggioranza secca, uninominale, avere un'erosione di voti anche magari non tantissimo può essere decisiva. Boris ammette fallito sul 31 ottobre, Parlamento bloccato anche a Madrid, 4 elezioni in 4 anni. Questa è l'Europa che non riesce ad andare avanti, ma dice invece contropiano di questa mattina, andiamo a prenderlo, un passaggio dei laburisti, un'occasione da non perdere, dice contropiano, perché riporta un discorso di Jeremy Corbyn, leader laburisti, che dice: c'è un'alternativa all'austerity, leggo da contropiano, c'è un'alternativa alla diseguaglianza, c'è un'alternativa agli amorevoli accordi con Donald Trump, c'è un'alternativa di governo che investe tutte le parti del paese, un governo che è determinato a porre fine alle ingiustizie della nostra società ed un governo che è determinato a dare ai nostri giovani un senso di speranza nella loro società, piuttosto che prospettargli l'indebitamento e la mancanza di sicurezza dell'impiego per il futuro, che è tristemente tutto ciò che il governo conservatore e la sua coalizione con i liberal democratici ha portato. Sono assolutamente pronto a uscire da questo messaggio in qualsiasi elezione e in qualsiasi momento in cui sarà fissata la tornata elettorale. Passo allora ad altre argomentazioni dall'estero. Modi porta i nazionalisti dell'Unione Europea in Kashmir. Un gruppo di 24 eurodeputati ha visitato la regione. Presenti ovviamente le penisti, leghisti, i tedeschi della AfD, una bella compagnia. L'opposizione indiana dice: e a noi viene addirittura negato il permesso di entrare. Ma non avete quelle caratteristiche, almeno spero per voi. Il Salvador spelle i diplomatici venezuelani. Caracas risponde: faremo lo stesso. Il paese centroamericano riconosce Guaidó. Quindi El Salvador si è schierato al fianco degli Stati Uniti d'America per quanto riguarda la situazione venezuelana. Tornando invece in Europa e ricollegandomi all'argomento di Alfredo, Cummings, il Rasputin di Johnson e il sospetto di interferenze russe sul voto. Il braccio destro del premier, uno dei principali promotori della Brexit, è accusato di avere rapporti ambigui con il Cremlino. Il politico conservatore ha passato 3 anni in Russia tra il 1994 e il 1997. Bannon, deciso a comprare l'inglese Daily Telegraph, trasformerò il giornale in una voce internazionale stile Trump. Il costo dell'operazione sarebbe di 100 milioni di sterline. Steve Bannon, ex stratega della campagna elettorale di Donald Trump. Qui lo vediamo a braccio teso, sappiamo che è una sua abitudine. Chiudo con Repubblica. Per la Francia, guerriglia nelle banlieue, scuola di circo in fiamme, notte di violenza a Chantilly-Lavigne, comune di 30 chilometri da Parigi. Gli agguati nelle banlieue organizzano concorsi online, vince la banda che attiva il maggior numero di agguati contro la polizia. Tra il 12 e il 13 ottobre nell'Île-de-France si attaccano 8 attacchi. La notte del 31 ottobre a Béziers gruppi di giovani danno fuoco a una scuola prima di tendere una trappola addirittura ai soccorsi. La situazione di ghetto, di degrado e di allontanamento che è tutt'altro che condivisione, anzi ghettizzazione, come ho detto. Hong Kong, 4 manifestanti accoltellati in un centro commerciale. Continuano gli scontri nell'ex colonia. E ancora manifestazione di massa sia in Libano che in Iraq, e tutto in funzione in qualche modo che mette in difficoltà l'egemonia iraniana nella zona, di quella che era chiamata un tempo la Grande Siria. Con questo noi ci congediamo con i giornali, ricordando che per la cronaca locale il Carino dice addio Cive, è morto Civolani, Gianfranco Civolani, decano dei giornalisti sportivi della città. Noi con questo noi ci salutiamo e ci sentiamo domani sempre a stessa ora. Ciao a tutti.